la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. Una coppia che chiede aiuto. Omelia 31 dicembre 2016. E guardando il presepe incontriamo i volti di Giuseppe e di Maria. Volti giovani, carichi di speranze e di aspirazioni, carichi di domande, volti giovani che guardano avanti con il compito non facile di aiutare il Dio bambino a crescere. Non si può parlare di futuro senza contemplare questi volti giovani e assumere la responsabilità che abbiamo verso i nostri giovani. Più che responsabilità, la parola giusta è debito. Sì, il debito che abbiamo con loro. Parlare di un anno che finisce è sentirci invitati a pensare a come ci stiamo interessando al posto che i giovani hanno nella nostra società. Abbiamo creato una cultura che, da una parte, idolatra la giovinezza, cercando di renderla eterna. Ma paradossalmente abbiamo condannato i nostri giovani a non avere uno spazio di reale inserimento, perché lentamente li abbiamo emarginati dalla vita pubblica, obbligandoli a emigrare o a mendicare occupazioni che non esistono o che non permettono loro di proiettarsi in un domani. Abbiamo privilegiato la speculazione invece di lavori dignitosi e genuini che permettano loro di essere protagonisti attivi nella vita della nostra società. Ci aspettiamo da loro ed esigiamo che siano fermento di futuro, ma li discriminiamo e li condanniamo a bussare a porte che per lo più rimangono chiuse. Siamo invitati a non essere come il locandiere di Betlemme, che davanti alla giovane coppia diceva: qui non c'è posto. Non c'era posto per la vita, non c'era posto per il futuro. Ci è chiesto di prendere ciascuno il proprio impegno, per poco che possa sembrare, di aiutare i nostri giovani a ritrovare qui nella loro terra, nella loro patria, orizzonti concreti di un futuro da costruire. Non priviamoci della forza delle loro mani, delle loro menti, delle loro capacità di profetizzare i sogni dei loro anziani. Se vogliamo puntare a un futuro che sia degno di loro, potremo raggiungerlo solo scommettendo su una vera inclusione, quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, partecipativo e solidale. Il silenzio e la meditazione di Maria. Omelia 1 gennaio 2018. Maria custodiva, prosegue il Vangelo, tutte queste cose meditandole. Quali erano queste cose? Erano gioie e dolori. Da una parte la nascita di Gesù, l'amore di Giuseppe, la visita dei pastori, quella notte di luce. Ma dall'altra un futuro incerto, la mancanza di una casa, perché per loro non c'era posto nell'alloggio, la desolazione del rifiuto, la delusione di aver dovuto far nascere Gesù in una stalla. Speranze e angosce, luce e tenebra. Tutte queste cose popolavano il cuore di Maria. E lei che cosa ha fatto? Le ha meditate, cioè le ha passate in rassegna con Dio nel suo cuore. Niente ha tenuto per sé, niente ha rinchiuso nella solitudine o affogato nell'amarezza. Tutto ha portato a Dio, così ha custodito. Affidando si custodisce, non lasciando la vita in preda alla paura, allo sconforto o alla superstizione, non chiudendosi o cercando di dimenticare, ma facendo di tutto un dialogo con Dio. E Dio, che ci ha a cuore, viene a abitare le nostre vite. La donna dell'attesa. Angelus, 2 dicembre 2018. La Vergine Maria che ci porta a Gesù, donna dell'attesa e donna della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare che attraverso il travaglio della storia Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare la sua misericordia. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, Edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.